la la la la la la la la la la. Se tu vieni con me, miracolo c'è, corri in fretta e lo puoi scappare da te. Il governo di qua, lì per lì, là per là, se mutato in civetta e sapete che fa. Ora dice tutto mio, quel che vedi è tutto mio. Su donami ciò che è tuo, tutto quanto voglio mangiare. Qui c'è tanta cacciagione, d'arrostio a perfezione. Il meglio d'ogni stagione a me sola deve toccare. È inutile discutere. La parte del leone spetta a lei. Comunque tu continua a chiedere. Un po' di carnevale anche per noi. Ma lei dice tutto mio, quindi faccio tutto io. Perdonami amico mio, capisci lo devo fare. Le riforme sono a mano e mi servo da richiamo. Su piedi per l'italiano, le tue fette mi devo mangiare. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la. A Viareggio si sa, se qualcosa non va, ci si ride un po' su e si tira pal va. È una formula che si commenta da sé, l'ha inventata per noi il carnevale, il garre. Ora dice tutto mio, quel che vede tutto mio. Donami ciò che è tuo, tutto quanto voglio mangiare. Qui c'è tanta cacciagione, d'arrostio a perfezione. Il meglio d'ogni stagione a me sola deve toccare. È inutile discutere. La parte del leone spetta a lei. Ovunque tu continua a chiedere. Un po' di carnevale anche per noi. Ma lei dice cucco mio, qui mi pacco tutto io. Perdonami amico mio, le riforme sono l'amo e mi servo da richiamo. Su piedi per l'italiano, le tue penne devo mangiare. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Bye.